ragazzi, non ci facciamo dettare l'agenda da nessuno, dice il vice premier. Il leader del PD su Letta: se si logora la colpa non è mia ma dell'azione di governo. Egitto al secondo giorno di votazioni per la Costituzione, nuove violenze, manifestazioni, attacchi ai seggi, ieri ci sono stati 246 arresti. Il probabile sia la nuova carta spianerà la strada alla candidatura alle presidenziali del generale al-Sisi. L'Italia vicina ad un accordo con la Svizzera sui capitali all'estero, scrive il Sole 24 Ore, obiettivo riportare nel nostro paese circa 200 miliardi di euro, ipotesi di finestra per una regolarizzazione volontaria fino al 2016. Il caso dei due Marò, presentato il ricorso alla Corte Suprema indiana, subito i capi d'accusa o li si faccia tornare a casa, partirà presto una missione parlamentare verso New Delhi. La Gaillet, amante del presidente francese Hollande, ha querelato il settimanale che ha pubblicato le foto, intanto è stata esclusa dal posto di giurato per i borsisti dell'Accademia di Francia Villa Medici a Roma. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti a Effetto Giorno, alle notizie in 60 minuti. Se volete commentare lo potete fare via SMS al 349-238-6666 sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno oppure scrivendomi su Twitter, mi trovate Simone Spezia. In apertura dunque questa busta con polvere sospetta recapitata a Palazzo Chigi, forse indirizzata al ministro Chieng, che avremo ospite tra un attimo. Intanto la cronaca con il nostro Vincenzo Miglietta. Vincenzo, buongiorno. Sì, buongiorno. Allarme, potremmo dire, rientrato a Palazzo Chigi, ma partiamo dai fatti. Il plico, una normale busta bianca da corrispondenza destinato, almeno sembra, al ministro per l'integrazione, è stato recapitato questa mattina all'ufficio postale della sede del governo. Erano circa le 9.30, come tutta la posta in arrivo è stato esaminato ai raggi X, che hanno segnalato al suo interno la presenza di una polvere. I vigili del fuoco, intervenuti dopo pochi minuti, hanno accertato che si trattava di polvere di bicarbonato. La busta è stata presa allora in consegna dai responsabili dell'ispettorato di Palazzo Chigi. Ancora non è confermato che la busta che è arrivata a Palazzo Chigi fosse indirizzata a me, quindi non posso commentare le prime parole poco fa del ministro Cécile Kyenge. Quanto alla Padania, che ha deciso di pubblicare l'agenda dei suoi appuntamenti, il ministro Kyenge ha detto di non sentirsi minacciata. A sconfessare intanto, Simone, la linea della Padania è stato questa mattina Umberto Bossi, che ha detto: è un errore, si fa pubblicità gratuita a un ministro che non fa niente, che non lavora, non ha nulla da dire. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta, e abbiamo raggiunto il ministro Chieng proprio pochi minuti fa. Ascoltiamo che cosa ci ha detto. Io in questo momento non posso darvi nessuna informazione, anche perché non so niente. Non sono al palazzo. Le sembra che possa essere un segnale preoccupante, visto anche quello che sta succedendo in queste ore, ministro? Ma credo che prima di pronunciarsi bisogna avere una certezza, forse la polizia ne sa un po' di più. Io in questo momento evito di pronunciarmi. Senta una cosa, è naturalmente ancora viva in queste ore la polemica su quello che ha fatto la Padania, che oggi ha deciso una sorta, vogliamo chiamarla, di parziale correzione, pubblicando anche l'agenda del ministro Zanonato. E però c'è Salvini che dice, insomma, sequestrare il giornale sarebbe fascista. Molti leghisti dicono: in realtà noi pubblichiamo l'agenda solamente perché è un diritto dei cittadini contestare il ministro. Ma la gente è già pubblica, nel senso che è già sul sito e si può vedere. Il punto un altro è che esistono degli strumenti democratici, quindi anche per la trasparenza, ma devono essere utilizzati con onestà e intellettuale, ma anche con correttezza nella comunicazione. È che quando si parla dell'agenda, dell'attività di un ministro, allora, visto che è già sul sito, ma bisogna essere complete il più possibile, perché esiste quella istituzionale, esiste quella col contatto sul territorio, esiste quella con il Parlamento, per cui bisogna, secondo me, utilizzare alcuni strumenti con la maggior cautela, cercando di non mettere in pericolo o di deviare il discorso. Allora sì che a quel punto io comincio a dire: siamo attenti alla nostra democrazia, che bisogna riuscire a utilizzare bene questi strumenti, altrimenti noi facciamo del populismo e aumentiamo la paura o aumentiamo comunque l'odio all'interno del nostro paese. Si sente in pericolo, ministro, anche alla luce appunto di quello che succede, della pubblicazione appunto della sua agenda, con chiaramente un obiettivo di contestazione? Ma io continuo a dire che a essere in pericolo sia la democrazia, cioè la democrazia che in questo momento è in pericolo, e di questo ce ne dobbiamo rendere conto, perché ogni cosa che lasciamo passare, ogni passaggio che noi diamo per scontato, costituisce di fatto quella routine che a un certo punto va a minare i fondamenti importanti della nostra Costituzione, del nostro Paese, e arrivare fino ad atti che di per sé rischiano di essere pericolosi. E quindi la Lega in questo modo mette in pericolo la democrazia, dice lei? Ma strumenti utilizzati in un modo non corretto deve essere letto comunque come uno strumento che rischia di deviare l'attenzione su un percorso normale della partecipazione e della trasparenza. E veniamo alla politica vera e propria, anche se naturalmente anche questa è politica, la politica dello scontro, se vogliamo, in questo momento tra Alfano e Renzi. Alfano all'attacco, Renzi intanto su Letta dice: se si logora la colpa non è mia. Elisabetta Fiorito per gli aggiornamenti. Sì, proprio così, Simone. Ancora una volta Matteo Renzi interviene sul governo Letta e sul possibile rimpasto. Il segretario PD spiega alla stampa che il primo ministro è il capo del governo, se si logora per le cose che fa, non per quelle che non fa, insomma perché governa male, non perché c'è un nuovo segretario del PD. Renzi insiste che i democratici staranno al governo con il nuovo centrodestra per far approvare Ius Solis e Civil Partnership. Dall'altra parte Angelino Alfano risponde alle provocazioni di Renzi sul rimpasto: c'è una grande ipocrisia, dice il leader del nuovo centrodestra, tutti lo vogliono e nessuno lo dice. In realtà le spinte per il cambiamento di alcuni ministri ci sono, Letta dovrà assumersi il peso, l'onere e la fatica di trovare la composizione, ma la questione principale per il vice premier è all'interno del PD. Facciano chiarezza su tutto, dice Alfano, si riuniscano e decidano una volta per tutte se riconoscono il Presidente del Consiglio, e se lo riconoscono lo aiutino. Senza di noi il governo non va avanti, poi avverte. In questo clima, lo ricordiamo, il Presidente del Consiglio Enrico Letta sta rientrando dal Messico e andrà subito a Palazzo Chigi. A te, Simone. Grazie Elisabetta Fiorito. Nel frattempo ci sono le questioni di agenda, come si diceva, che sono questioni di agenda prevalentemente di politica economica, naturalmente, e tra queste rientra in maniera prepotente la questione dell'accordo tra Italia e Svizzera per il rimpatrio dei capitali. In studio con noi Alessandro Galiberti, collega del Sole 24 Ore, buongiorno e benvenuto Alessandro. Buongiorno a te, ascoltatori. Allora, oggi date un'anticipazione, siamo alla stretta finale a quanto pare. Sì, abbiamo cercato di affrontare con chiarezza e completezza un tema che è molto complicato, quello del rientro dei capitali. C'è assoluto bisogno che tutto quello che non è stato dichiarato negli anni dai contribuenti rientri nella contabilità statale, perché si tratta di una somma comunque enorme. Stime molto prudenti di Banca Italia dicono che ci sarebbero 120-180 miliardi in Svizzera, prendiamo per buoni 180 miliardi, c'è un'altra quota di 30-40 che probabilmente è altrove, e quindi si impone il problema di come far rientrare questi capitali. Che cosa si sta ipotizzando al momento? Ci sono due binari e sono ben distinti. Da un lato il governo sta lavorando ormai da due mesi intensamente sulla regolamentazione della voluntary disclosure. Significa un invito ai contribuenti che hanno grosse somme all'estero, fiscalmente non dichiarate, e se sono depositate lì generalmente lo sono, un invito a presentarsi agli uffici finanziari a dichiarare tutto quello che si ha all'estero. Con quali conseguenze? Un trattamento di favore sulle sanzioni, pagamento integrale delle imposte, svelamento totale del completo di tutte le attività possedute all'estero, e magari chiudere un occhio sul versante penale. Oggi in prassi è così. Il decreto legge su cui sta lavorando il governo tende ad agevolare ancora di più il rientro volontario dei capitali, per esempio prevedendo una non punibilità per alcuni reati fiscali. E poi c'è lo scambio di informazioni. Questo infatti, dividiamolo cronologicamente, sì. Da qui fino al 2016 verosimilmente, ma questo lo stabilirà il decreto legge che stiamo aspettando da mesi, ci sarà la possibilità di fare la voluntary, cioè di svelare, cioè una confessione spontanea, e ci sarà un trattamento premiale. a cosa serve l'accordo sullo scambio di informazioni automatico? Serve a perseguire chi non avrà nel frattempo regolarizzato. Contestualizziamolo, non è che la Svizzera fa un trattato bilaterale con l'Italia perché gli stiamo simpatici, probabilmente c'è anche questa componente, però in realtà è che gli Stati Uniti ormai da 4 anni stanno guidando, con passo di, possiamo dire anche marziale, questa politica del scambio obbligatorio di informazioni tra le amministrazioni fiscali. Perché? Perché il problema è nato, lo sappiamo, nel 2008 negli Stati Uniti, il default delle banche, la necessità di recuperare a tassazione tanti capitali. Ti ringrazio, grazie ad Alessandro Galimberti del Sole 24 Ore, tutti i dettagli sul quotidiano oggi in edicola. Parliamo dei disoccupati. Secondo la CISL nell'anno in corso sono a rischio 200.000 posti di lavoro. Sentiamo. La crisi più nera sarà anche alle spalle, ma per i lavoratori anche il 2014 si apre sotto infausti auspici. L'osservatorio della CISL, rielaborato da TIMSS e dallo studio, viene fuori che circa 200.000 rischiano di perdere il posto. Il numero è in calo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ma ancora pericolosamente alto, spiegano dalla CISL. Il punto è che al di là dei numeri, il biennio che si è chiuso è stato drammatico per l'economia e ora che molti affermano che la recessione è finita, si è passati a una sorta di stagnazione, in cui si intravedono solo piccole luci di una possibile ripresa, così il segretario confederale Luigi Sbarra. L'anno si è aperto portando con sé una pesante eredità, le vertenze al Ministero dello Sviluppo Economico sono 159, circa 120.000 lavoratori interessati. E dentro c'è di tutto, dall'elettronica di Alcatel e Italtel alle ceramiche di Ideal Standard, il tessile di ITR, le energie rinnovabili di Marcegaglia. Tra i nomi grossi spicca l'Ilva, poi Alcoa, ferma da 2 anni, problemi anche per Lucchini, gruppo siderurgico passato alla Severstal, e ancora Electrolux, le acciaierie di Belluno, l'Ansaldo Breda, la Irisbus. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E veniamo alla situazione dei due Marò. È stato presentato il ricorso dell'Italia presso la Corte Suprema e oggi è emerso qualche dettaglio ulteriore. Sentiamo. La Corte Suprema indiana dovrebbe esaminare il ricorso sul caso dei due Marò, Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, nei primi giorni della prossima settimana. L'Italia chiede che si presentino subito i capi d'accusa nei confronti dei due militari senza utilizzare la legge antiterrorismo, già esclusa dall'Alta Corte del Kerala, oppure che si autorizzino i due militari a rientrare in Italia in attesa del processo. I due Marò italiani, lo ricordiamo, sono stati arrestati 21 mesi fa con l'accusa di aver sparato a due pescatori indiani al largo del Kerala, uccidendoli. L'attuale accelerazione disposta da Roma è stata decisa per mettere fine all'impasse che sta allungando a dismisura la prospettiva di rientro in Italia dei due Marò e per scongiurare qualsiasi tentativo di introdurre l'ipotesi della pena di morte. Dopo le pressioni esercitate sui vertici dell'Unione Europea, il Parlamento potrebbe decidere di inviare una delegazione in India per verificare la situazione di Girone e Latorre. Il caso dei Marò è una priorità assoluta del governo e, come ha assicurato il ministro dell'Interno e vicepremier Angelino Alfano, lavoreremo senza risparmiare alcuna energia per riportarli a casa, ha detto. Il ministro degli esteri indiano Salman Khurshid nel frattempo ha dichiarato che i due Marò italiani possono avere ceduto nelle loro funzioni ma non sono terroristi e il fatto che dopo 2 anni non vi siano ancora i capi d'accusa è imbarazzante ma dipende dalla complessità del sistema indiano. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Pier Ferdinando Casini, presidente della Commissione Esteri del Senato, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Allora, parte questa missione parlamentare oppure no? Bisogna evitare che ci sia una processione in ordine sparso che finisce per essere certamente dannosa per tutti, rischia di alzare inutili polveroni e anche di portare un calo nel decoro del nostro paese. E pertanto abbiamo deciso assieme ai presidenti delle commissioni difese ed esteri di Camera e Senato di incanalare in un'unica delegazione parlamentare questa manifestazione di solidarietà verso i nostri Marò, persone che si sono comportate con grande dignità, che hanno svolto il loro lavoro, ed è veramente infame solo voler accennare a qualche paragone col terrorismo, ma mi fa piacere che oggi ci sono dichiarazioni indiane di grande responsabilità e serietà. Scusi la brutalità, era per evitare che i 5 Stelle ci andassero da soli? No, ma assolutamente non è il problema dei 5 Stelle, il problema dei Fratelli d'Italia, 5 Stelle, Scelta Civica, Per l'Italia, ciascuno voleva manifestare questa solidarietà ed è bello che si voglia manifestare. dovesse fare questa solidarietà. Ritengo che 5 Stelle abbia avuto un'idea che certamente è positiva, ma è anche giusto che ci sia, diciamo, una manifestazione comune, perché c'è tutto il Parlamento a sostegno dei nostri Marò e tutto il nostro Paese e la sua opinione pubblica. E devo dire che bisogna anche riannodare i fili di una collaborazione seria e, diciamo, costruttiva con gli indiani, perché non è che con le manifestazioni di solidarietà poi si risolvono, ecco, i problemi. No, perché il punto è questo, senatore Casini, perché molti ascoltatori ci scrivono, ma alla fine poi sa come, insomma, com'è forte in questo periodo lo scetticismo nei confronti della politica, ma alla fine a che serve una missione parlamentare in India? A fare una gita e a spendere soldi nostri? Benissimo, allora, se non si va in India non si dimostra solidarietà verso i Marò, se ci si va si spendono soldi pubblici, e allora bisogna che qualcuno si metta d'accordo con se stesso prima di tutto. Noi abbiamo seguito questo problema con molta serietà per mesi e non abbiamo mai avuto l'idea di fare una missione parlamentare. Avremmo potuto farla, non l'abbiamo fatta, proprio perché ritenevamo che c'erano le autorità istituzionali, c'è un incaricato del governo De Mistura che seguiva il problema. Nel momento in cui diverse forze politiche affacciano questa richiesta, noi sentiamo questa sensibilità. Dopodiché è chiaro che oggi si fa un po' fatica ad orizzontarsi in un'opinione pubblica che ha sentimenti contrapposti, ma certamente il tutto avverrà all'insegna della sobrietà, non ci si può andare in treno, ecco, questo è l'unico problema. Bisogna andarci in aereo, per forza, per forza. Anche per via mare è un po' complicato. Assolutamente. Quindi l'obiettivo, per chiudere, due elementi, quindi, lei dice solidarietà e annodare un dialogo anche con i vostri corrispettivi indiani. Noi abbiamo una tradizione di rapporto parlamentare con l'India positivo, io stesso come presidente dell'interparlamentare a Ginevra sono stato in passato eletto sempre anche col concorso dei voti indiani, per cui le relazioni parlamentari con gli indiani non possono essere lasciate cadere e vanno coltivate, naturalmente tenendo presente che anche loro hanno l'autonomia del sistema giudiziario rispetto al potere legislativo, ma questo vale per noi come vale per loro. Grazie per Ferdinando Casini, presidente della Commissione Esteri del Senato, buona giornata. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Recapitata a Palazzo Chigi una busta con polvere sospetta, si è scoperto poi che era bicarbonato, sono intervenuti i vigili del fuoco, forse indirizzata al ministro Chieng. Alfano all'attacco di Renzi, non ci facciamo dettare l'agenda da nessuno, il leader del PD su Letta, se si logora la colpa non è mia ma dell'azione di governo. Egitto al secondo giorno di votazioni per la Costituzione, nuove violenze, manifestazioni e attacchi e ai seggi. L'Italia è vicina ad un accordo con la Svizzera sui capitali all'estero, dice il Sole 24 Ore, ipotesi di finestra per una regolarizzazione volontaria fino al 2016. E parliamo proprio di economia adesso e lo facciamo con Pierpaolo Baretta, sottosegretario all'economia, che saluto, bentornato ad Effetto Giorno, sottosegretario. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Io la prima domanda che le vorrei fare in realtà è ritornare un attimo sui dati arrivati ieri sull'inflazione. Da più parti si parla del rischio che l'Italia vada in deflazione, la qualcosa, come abbiamo spiegato ieri ad Effetto Giorno un professore della LUIS, rischia di avere un impatto forte sul nostro debito pubblico. Che tipo di preoccupazione avete da questo punto di vista all'interno dell'esecutivo? Ma guardi, diciamo che questi dati meritano un'attenzione maggiore di quella che finora gli è stata dedicata, perché c'è un trend di abbassamento dell'inflazione che accompagnato dall'altro lato dalla, per fortuna, lo spread che è ai minimi, abbiamo una situazione economica che va affrontata in tutta la sua interezza, c'è da chiedersi in sostanza se la somma di questi dati non implichi la necessità di un ripensamento di politica economica un po' più espansivo. Cioè, il punto è questo, il rischio che l'abbassamento dello spread che stiamo verificando in questo periodo e l'abbassamento dei rendimenti di titoli di Stato sia annullato da un'inflazione che scende sempre di più e da un avvicinamento alla deflazione, c'è secondo lei oppure no, per essere espliciti? Ah, guardi, intanto è un rischio che prendiamo volentieri se accompagnato appunto da un abbassamento dello spread, perché come sappiamo l'abbassamento dello spread ha un effetto straordinariamente positivo proprio sugli interessi del debito. Però è proprio per questo motivo che io penso che i dati sull'inflazione debbano diventare dati di attenzione politica per non lasciarli vagare da soli, che potrebbero poi diventare dirompenti. Quindi in qualche modo c'è da chiedersi se oggi con un'inflazione così bassa siamo di fronte alla possibilità, ripeto, di manovre cioè, ci dobbiamo preoccupare meno di uno scarto, diciamo, di un punto di inflazione verso l'alto, no? Quindi una ripresa dei consumi e una ripresa degli investimenti, insomma, in qualche modo è il momento in cui bisognerebbe forzare tutti insieme. Ultima cosa che le voglio chiedere riguarda quello che ha pubblicato oggi il Sole 24 Ore, questo accordo con la Svizzera che sarebbe vicino. Ci sa dire qualcosa su questo, sottosegretario? Sì, posso solo dire che si sta lavorando alacremente e che consideriamo quella prospettiva una prospettiva molto importante, perché consentirebbe di avere un quadro tanto di certezze normative maggiori sul movimento dei capitali e poi anche di risorse disponibili in questa situazione nella quale appunto ce n'è molto bisogno. Diciamo che da un lato la spending review deve servire per abbassare le tasse, dall'altro le entrate di carattere generale devono servire per fare investimenti. Questo è un po' lo schema. Tempi non ce ne può dare? Un'idea brevi. Massima? No, non sono in grado di darveli per ragioni non solo di correttezza ma anche perché sono incontri bilaterali, però sicuramente noi lavoriamo sui tempi brevi. Grazie a Pierpaolo Baretta, grazie, sottosegretario all'economia, buona giornata. E noi adesso cambiamo argomento, ma continuiamo a parlare in realtà di questioni economiche e di questioni di bilancio pubblico. Vogliamo partire da una storia che riguarda Venezia, dove 3 scuole sono state chiuse. Perché sono state chiuse? Perché sono stati tagliati i fondi per l'esternalizzazione delle pulizie nelle scuole, ossia per gli appalti a chi fa le pulizie nelle scuole. Queste scuole sono sporche e quindi le hanno dovute chiudere. Oggi si parla anche di difficoltà in altre zone d'Italia, a Ravenna, a Faenza. I fondi sono passati da 600 milioni nel 2011 a 400 nel 2013, arrivando fino a circa 350 per quest'anno. Il punto è anche che è cambiato il metodo di calcolo. Saluto Brenno Peterlini, che è presidente del Consorzio Nazionale Servizi, che è uno dei più grossi operatori in questo settore, nel settore appunto della pulizia degli edifici pubblici, in particolare delle scuole. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, è cambiato il metodo di calcolo, il problema è anche questo, no? È anche questo, sicuramente, perché il Ministero ha stabilito che per ogni istituto scolastico una cifra con la quale è necessario eseguire il servizio di pulizia in quell'ambito scolastico, i cosiddetti posti accantonati. Quindi diciamo che non c'è corrispondenza rispetto ai metri quadrati che devono essere puliti nelle scuole. Questo è il dato di fatto oggettivo, oltre che un taglio che comunque è stato effettuato in maniera significativa rispetto a quanto, come lei ci ha ricordato, rispetto non solo agli anni precedenti, ma anche che parlavamo di una cifra, in realtà quest'anno ha stanziato 273 milioni. 273 milioni. Peterlini, io ho una domanda molto secca e poi la saluto. Che rischio c'è effettivo di estensione di questo fenomeno nei prossimi giorni, nelle prossime settimane al resto d'Italia? Perché insomma il fatto che 3 scuole chiudano, siano costrette a chiudere perché sono sporche, direi che colpisce molto, e a quanto pare il problema non tocca solo quel tipo di edificio pubblico, ma anche per esempio le caserme, però là insomma puliscono direttamente i poliziotti. È un altro filone, abbiamo visto dalle foto. Certo. Che rischio c'è di estensione e che secondo lei, insomma, che ha sott'occhio la cosa? Credo che sia abbastanza, c'è un rischio che c'è interamente, perché una situazione come quella del Veneto, di Venezia, che io non conosco più specificamente nel dettaglio, però abbiamo tutti o tutte le imprese che sono risultate aggiudicatarie dei vari lotti nei quali è stata suddivisa la convenzione, ci dovranno doversi confrontare con quel disponibile, quindi necessariamente dovranno tagliare le prestazioni che vengono fatte, quindi significa poi tagliare le ore di lavoro ai dipendenti, di conseguenza il servizio nell'ambito della scuola sicuramente avrà un peggioramento. Ora, non so se dovremo arrivare a case come quelli che lei ha citato, mi auguro di no, però soprattutto nelle zone del mezzogiorno credo che questa cosa si manifesterà in maniera molto più marcata, almeno questa è la mia sensazione. Voi servite molte scuole nel mezzogiorno, Peterlini? Le servivamo, nel senso che fino ad oggi, ma nei lotti delle gare Consip non abbiamo partecipato, mi riferisco appunto ai lotti della Campania, della Sicilia, che sono ancora tra l'altro quelli da giudicare. Noi non abbiamo partecipato proprio, ti dico la battuta, però ancora il rischio di vincere, insomma. Perché no. Non ne vale la pena, dice non ne vale la pena. Va bene, grazie. La saluto. Grazie. Brenno Peterlini, presidente del Consorzio Nazionale Servizi. Molti ci scrivono: la scuola va pulita dai bidelli, ma tant'è, le cose sono cambiate. Noi andiamo all'estero adesso, perché siamo al secondo giorno di voto sulla Costituzione per l'Egitto. Ieri c'è stata una giornata di violenze con 11 vittime. Altre violenze ci sono state oggi, c'è stato un attacco ai seggi, manifestazioni presidiate tra l'altro dalla polizia. Ieri 246 arresti. L'analisi di Alberto Negri. Una vittoria scontata del sì consentirà al generale al-Sisi, nuovo uomo forte dell'Egitto, di presentarsi alle prossime elezioni presidenziali e legittimare il potere conquistato con il colpo di Stato del 3 luglio scorso. In poche parole, il generale è il vero successore di Mubarak, che nel 2011 non aveva saputo indicare un delfino scatenando la rivolta di Piazza Tahrir. All'Egitto ci sono voluti 3 anni e molto sangue versato per tornare al punto di partenza. Il potere in mano ai generali, così come era stato negli ultimi 60 anni dai tempi di Nasser. Mohamed Morsi, il primo presidente eletto democraticamente dell'Egitto, ha rappresentato dunque una parentesi, soprattutto per i gravi errori commessi nella condotta di governo dai fratelli musulmani. Ma siamo sicuri che durerà questa euforia che vede i militari come salvatori della patria egiziana? Per ora evidentemente sì, visto che anche gli Stati Uniti si apprestano a scongelare 1,5 miliardi di dollari di aiuti bloccati dopo il golpe. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. È capitata a Palazzo Chigi una busta con polvere sospetta, poi era bicarbonato, si suppone indirizzata alla Chieng, che dopo quello che è successo con la Padania, che ha deciso di pubblicare l'agenda del ministro, dice è a rischio la democrazia. Il leader del PD, Matteo Renzi, su Letta dice: se si logora la colpa non è mia ma dell'azione di governo. Alfano intanto attacca lo stesso Renzi: non ci facciamo dettare l'agenda da nessuno, dice il vice premier. L'Egitto è al secondo giorno di votazioni per la Costituzione, nuove violenze, manifestazioni, attacchi ai seggi, ieri 246 arresti. L'Italia è vicina ad un accordo con la Svizzera sui capitali all'estero, obiettivo riportare nel nostro paese circa 200 miliardi di euro. Ed è il momento della borsa. Borse in diretta. Tutto bene a quanto pare oggi, FTSE MIB in guadagno di quasi un punto percentuale, FTSE Share dello 0,89, per quanto riguarda il resto d'Europa più 0,71 per Parigi, Francoforte più 1,39, Londra più 0,37%. Isabella Tasso, Radio Corriere del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Allora, come mai? I listini sono sostenuti dall'ottimismo della Banca Mondiale, che ha rivisto in positivo le stime sulla crescita. La crescita globale è prevista in rafforzamento già nel 2014, dal 2,4% del 2013 si passerebbe al 3,2% nell'anno in corso, poi al 3,4% e al 3,5% nel 2015 e nel 2016. Così gli indici sin dalle prime battute hanno preso la via del rialzo, ignorando peraltro un dato inferiore alle attese sul PIL tedesco del 2013. Bene, i bancari mi sembra oggi: Popolare di Milano più 4,72, Banco Popolare più 3,88, Mediobanca più 2,87, UBI Banca più 2,7%, Unicredit più 1,92, Intesa San Paolo più 1,8%. Sì, il comparto va bene, sostiene tutto il listino. Gli analisti di Equita mettono oggi in evidenza quali sono le sfide per il settore bancario italiano nel 2014, concludendo che il settore è ancora attraente, che gli utili dovrebbero accelerare. 5 punti percentuali di guadagno Finmeccanica, il titolo migliore sul FTSE MIB. Che succede? Ma sono le dichiarazioni rilasciate ieri dall'amministratore delegato di Airbus, che ha aperto al consolidamento nel settore spaziale e si è detto disponibile a discutere l'acquisto della quota di minoranza in MBDA, che è una joint venture nel settore dei missili con Finmeccanica e BAE. Grazie ad Isabella Taso e Radio Corre, Il Sole 24 Ore e buona giornata. Grazie, buona giornata. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. E siamo a parlare di legge elettorale. Lo facciamo col professor Roberto Dalimonte, che insegna alla LUISS ed è editorialista del Sole 24 Ore. Professor Dalimonte, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Allora, le posizioni dei partiti sono naturalmente, come sappiamo, diverse, anche se sembra che si sia più o meno alla stretta finale, finalmente. Insomma, la famosa, come dice il collega Alessandro Milan, è la settimana decisiva per la legge elettorale. Mi sembra di capire che lei sia favorevole a quella che viene chiamata impropriamente l'ipotesi del sindaco d'Italia, no? Sì, ha detto bene, impropriamente. Sì, io sono favorevole perché la ritengo in questa fase storica la più adatta per assicurare governabilità al nostro Paese. Però devo anche dirle che se si andasse sulla Mattarella corretta, comunque andrebbe bene. Quindi non, quello che non vedo, anche lo spagnolo andrebbe bene. Il problema dello spagnolo è che non mi sembra politicamente praticabile, ecco, ma tra il doppio turno di lista, quello che lei chiama impropriamente il modello del sindaco, e la Mattarella corretta, tutte e due andrebbero bene. Tutte e due, quindi le ipotesi sono tra le due ipotesi, sono tre ipotesi quelle fatte da Matteo Renzi e presentate agli altri partiti. Una di queste è appunto il modello spagnolo, con piccole circoscrizioni e premio di maggioranza del 15%, il Mattarellum corretto, con collegi uninominali, premio al 15% e un diritto di tribuna per i piccoli partiti del 10%, e poi appunto questo doppio turno di coalizione. Doppio turno di coalizione che però, professor Dalimonte, formalmente conserverebbe il sistema istituzionale attuale, nel senso che quello che si elegge è appunto il Parlamento con questo doppio turno di coalizione che poi elegge il Premier, e però non rischia di avvicinarci, rischia è un termine generico, non ha una valutazione negativa o positiva, ad un semipresidenzialismo o a un premierato di fatto? Più premierato. Lei dice bene, perché in realtà, pur non essendo un'elezione diretta del capo dell'esecutivo, quando noi andiamo ad assegnare la maggioranza dei seggi in Parlamento con un ballottaggio, diciamo non è de jure, ma de facto, nei fatti, gli elettori scelgono il Presidente del Consiglio. Però c'è da dire che con un sistema del genere resta il Presidente della Repubblica come figura di garanzia e resta il fatto che il Parlamento può comunque sfiduciare il Presidente del Consiglio eletto con questo sistema elettorale. Quindi noi manteniamo da una parte appunto la funzione di equilibrio della Presidenza della Repubblica e dall'altra la flessibilità della forma di governo parlamentare. Professor Dalimonte, un'ultima domanda, una previsione o quasi un vaticinio. Gliela fanno questa volta? Ma io spero proprio che ce la facciano, perché il Paese ha bisogno di certezze e la legge elettorale è una di queste. E quindi io spero che ce la facciano, però non ho la sfera di cristallo. Ci sono tentazioni varie di restare dove siamo adesso, cioè su un sistema proporzionale. Però insomma Renzi mi pare che sia determinato, deve però trovare una collaborazione. Professore, mi scusi, adesso che me l'ha fatto venire in mente, ma dicono, scrivono tutti che è lei il suggeritore di Renzi, è vero? Senta, io sono innanzitutto un tecnico, un esperto, un professore universitario che ha collaborato in passato con il centrodestra, con il centrosinistra di Bersani e prima ancora di Amato, e oggi sta collaborando con il PD di Renzi. La mia funzione è quella di aiutare a fare una legge elettorale che sia finalmente efficiente, che ci dia governabilità e spero largamente condivisa, perché solo in questo modo può durare nel tempo. Quindi io, come dire, cerco di dare un contributo nell'interesse del Paese. In questo momento mi è stato chiesto di aiutare Renzi e lo sto facendo, così come ho fatto nel passato anche con Calderoni. Grazie, grazie al professor Dalimonte per essere stato con noi. Le auguro buona giornata e buon lavoro naturalmente. E buona giornata anche a voi. Noi siamo alla seconda puntata della nostra inchiesta del quartiere ad Avellino che lotta contro l'amianto e con tutta la città potenzialmente a rischio. È la storia dell'isochimica, una storia di operai che di lavoro sono morti e di una parte della popolazione che si sta ammalando. Come si diceva, seconda puntata, la prima puntata è andata in onda ieri e poi sabato ci sarà il reportage e l'inchiesta è di Katia Caramelli. Gli operai all'isochimica e tutto certificato lavoravano senza protezione. Così è stato per anni e ora è arrivato il picco delle malattie. 12 i morti accertati, 140 i malati e numerosi altri casi vengono segnalati. Carlo Sessa all'isochimica ha lavorato dall'83 all'88. A parte i due capannoni che hanno fatto non erano idonei proprio a fare questo tipo di lavoro. Quindi senza impianti di aspirazione, senza niente, sta tutto documentato, tutto scritto, non lo diciamo noi però. Quindi i primi anni sono stati terribili, addirittura con i fazzoletti davanti alla bocca. Poi sono arrivate le semplici mascherine di carta in un ambiente incredibile, si scoibentavano 30 carrozze contemporaneamente, quindi l'amianto non veniva neanche bagnato, come disse la cattolica nell'85. Poi li portavamo a casa, infatti ci stava già qualche caso di moglie che all'epoca qualcuno del lavoratore erano sposati e c'è sta avendo qualche problema con l'amianto. E noi purtroppo, nonostante la giovanissima età, capimmo che qualcosa non andava. Già nell'84-85 iniziamo a fare le denunce, forse primo caso unico in Italia, lavoratori che denunciavano l'azienda dove lavoravano. Però purtroppo nessuno ci ha ascoltato, stava succedendo una tragedia dentro e fuori. Al danno la beffa, nessun prepensionamento per questi operai. Molti continuano a lavorare altrove con turni pesanti. Nicola Abrate è un ex operaio. Io mi resi conto già dal primo giorno di lavoro, però io avevo meno di 20 anni. Mi ricordo che fui portato subito immediatamente nel reparto e trovai 5-6 ragazzi che avevano più o meno la mia stessa età. Avevano i loro vestiti, i loro abiti, tutti sporchi, pieni di polvere e in mano avevano un semplice stecchetto di ferro e con quello grattavano dalle pareti dei treni l'amianto senza nessun tipo di protezione. Purtroppo mi accorsi qualche anno fa che avevo dei problemi di tipo respiratorio, nonostante io ho solo 50 anni, insomma, dolori al torace, quindi io mi rivolsi all'Università di Siena, che è, diciamo, un ente specializzato su questo tipo di patologie, e là mi hanno riscontrato un'asbestosi. Domani la terza puntata e poi vi ricordo ancora che ci sarà il reportage. È il momento degli aggiornamenti sulle vicende sentimentali del presidente francese. Privata o pubblica? Il giorno dopo la conferenza stampa in cui il presidente François Hollande ha rivendicato il diritto al rispetto della sua vita privata, la Francia continua a interrogarsi sull'abile confine tra le due sfere. Tanto più che il settimanale satirico Canard Enchaîné ha rivelato questa mattina che l'amante di Hollande, l'attrice Julie Guerrier, è stata inserita nella giuria che seleziona i 15 artisti ospitati per un anno a Villa Medici, la bella sede romana della prestigiosa Accademia di Francia, come peraltro risulta chiaramente dal sito di Villa Medici. Il Ministero della Cultura si è affrettato a dire che la nomina appena prima di Natale non è stata convalidata, non sarà commissione. Ma la toppa sembra quasi peggio del buco. Se la storia di Hollande è privata e tale deve restare, sarebbe bene che non ci fossero sospetti su sconfinamenti nel pubblico. Nel frattempo, la Confindustria francese ha apprezzato l'impostazione socialdemocratica del presidente, ma ha detto che 10 miliardi di sgravi non bastano, ne servono 80. Marco Mussanè, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Leader del PD, Matteo Renzi su Letta: se si logora la colpa non è mia ma dell'azione di governo. Scontro sulla Padania, che pubblica l'agenda del ministro Kyenge, che dice: non mi sento in pericolo, lo è la democrazia. Egitto al secondo giorno di votazioni per la Costituzione, nuove violenze. Il probabile sia la nuova carta spianerà la strada alla candidatura alle presidenziali del generale Al-Sisi. Italia vicina ad un accordo con la Svizzera sui capitali all'estero. Obiettivo: riportare nel nostro paese circa 200 miliardi di euro. È il momento di America 24 e di Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24. Buongiorno Simone da New York, Mario Platero. Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè. A malapena riesco a mandar giù. Fred Bongusto, spaghetti a Detroit. Beh, siamo in odore di Detroit. C'è il salone dell'auto. Ieri vi ho raccontato un po' le novità sul fronte dei nuovi modelli. Abbiamo sentito una chiacchierata con l'amministratore delegato di Fiat e di Chrysler, Sergio Marchionne. Ma oggi vorrei parlarvi di quella Detroit che invece è sganciata dall'auto. Sapete che la città ha dei problemi, è fallita. L'anno scorso, nel luglio dell'anno scorso, ha dichiarato fallimento, c'è un buco di 18 miliardi di dollari, si pensava addirittura di dover vendere il museo cittadino, la collezione del museo cittadino, valutata in circa 800 milioni di dollari, per evitare di tagliare le pensioni ai dipendenti pubblici. E poi sono intervenuti dei benefattori, la notizia è di ieri, che hanno garantito almeno 300 milioni per poter coprire quella posizione. E dunque abbiamo questa immagine contrastante: da una parte le tre grandi dell'auto che si sono riprese, che vanno bene, dall'altra una città in declino. Pensate che aveva quasi 2 milioni di abitanti nel 1950 e adesso ha soltanto 700 mila abitanti. C'è stata nel 1967 una fuga, c'è stata una grossa rivolta popolare e la gente è fuggita letteralmente da Detroit, che è rimasta abitata in città soprattutto dagli afroamericani. Pensate, c'è un tasso dell'81,2% di popolazione afroamericana a Detroit. E a questo punto le cose devono cambiare. C'è un esperimento Detroit? Beh, io sono stato a Detroit proprio per cercare di capire questa città e quello che sta succedendo. E ho fatto anche una chiacchierata con il sindaco Mike Duggan. Sentiamolo. What is your first plan of action? Dice, beh, per ora stiamo cercando di riportare la gente al lavoro, stiamo studiando un piano di riorganizzazione per la città. Tutti stanno lavorando duro e quando l'ho incontrato è stato tra l'altro un evento molto suggestivo, molto interessante e divertente allo stesso tempo, di cui vi parlerò fra un minuto. Tra l'altro, pensate, è il primo sindaco bianco in 40 anni, dicevo, una città che ha una popolazione dell'81% afroamericana, un uomo tra l'altro tarchiato fisicamente, ha questo aspetto molto aggressivo, pronto al contrattacco. Pensate che è riuscito a ribaltare completamente le sorti di un ospedale, perché è un manager, non è un politico, e dunque vuole rimettere a posto le strade, vuole rimettere a posto i lampioni che il 50% sono fuori uso, vuole che le ambulanze intervengano in tempo, che la polizia funzioni e così via, così via. Dunque un uomo molto pragmatico. Vi dicevo, l'ho incontrato a questa colazione dove poi mi ha detto che il suo successo o meno del mandato di sindaco da qui a qualche anno sarà sulla base del numero di abitanti della città che saranno aumentati. In sostanza dice: abbiamo adesso un numero veramente basso, la popolazione di Detroit deve aumentare, ho un piano. The new mayor coming in, you're optimistic about that? I'm very optimistic about him. I think he's going to do a great job. Allora, vi ho parlato poco fa di una colazione, sono stato invitato a questa colazione al Detroit Athletic Club, che è uno dei vecchi club di Detroit, costruito da questo architetto Kahn, che poi è quello che ha progettato buona parte della città a partire dagli anni 10 fino agli anni 20, agli anni 30, gli sono stati affidati gli incarichi più importanti. Questo club è una copia di Palazzo Farnese a Roma e così rappresentava dal punto di vista simbolico lo spirito rinascimentale, perché negli anni 20, negli anni 30 Detroit, col boom strepitoso dell'auto, era diventata una delle città più ricche d'America, se non addirittura la città più ricca d'America. E chi è Damon Keith, di cui vi ho fatto sentire la voce? Beh, è un signore di 91 anni che ha appena scritto un libro, si chiama Crusader for Justice, crociato per la giustizia, è un afroamericano ed è stato uno dei primi giudici federali nominato dal presidente Lyndon Johnson, pensate, stiamo parlando degli anni 60, subito dopo la rivolta, infatti, del 1967, e quando ci fu la rivoluzione di Johnson sul fronte dei diritti civili, perché prima per gli afroamericani i diritti civili erano davvero molto limitati. Ecco, e il suo messaggio è di ottimismo, come quello del sindaco. Sono molto ottimista, dice, il nostro futuro è in buone mani, ora credo che le cose cominceranno a andar meglio. Ecco, qual è il piano, il progetto Detroit del sindaco? È un progetto che punta non soltanto sulla città, ma sull'area metropolitana. L'idea è di far funzionare in modo coeso l'economia delle 10 contee circostanti. Bisogna prendere atto che l'auto, nonostante la ripresa del settore, non potrà essere, anche per la sua natura ciclica e per la crescente robotizzazione che poi va a continuare a diminuire la forza degli occupati, non potrà il settore auto essere l'unico pilastro per la sostenibilità economica della città e dell'area metropolitana. E dunque si punta su tre settori: quello ospedaliero e della ricerca medica, quello della difesa, c'è una forte industria della difesa nell'area metropolitana di Detroit, e quello dell'education con la University of Michigan, che è una, tra l'altro, delle quattro grandi università statali americane. Le altre sono Berkeley, University of Virginia e Texas. A questi settori si aggiunge un fattore geografico chiave che pone Detroit su due grandi laghi al centro di un corridoio NAFTA ed è sulla porta d'accesso più importante dall'America al Canada, e quindi c'è c'è il più importante traffico all'esportazione, il passaggio all'esportazione verso il Canada di tutti gli Stati Uniti. Ecco, l'obiettivo è ambizioso, ma devo dirvi che in questa colazione che ha fatto un po' da filo conduttore per questa mia esperienza a Detroit, ho trovato uno spirito cittadino molto coeso. C'erano leader religiosi, c'erano leader civili, c'erano dei politici, c'erano degli avvocati, dei giudici venuti in onore del giudice Keith, c'erano degli uomini d'affari, c'era soprattutto Alfred Taubman, che è uno dei più importanti uomini d'affari del Michigan, la sua attività di real estate, la sua attività nel settore immobiliare, pensate, è stato uno dei pionieri dello shopping mall, di questi grandi centri di acquisto nell'area metropolitana. Ecco, è stato Taubman che ha invitato questo centinaio di persone per dare questo spirito sul piano simbolico di questa Detroit che si sta riprendendo. Questo è un quadro macroeconomico, magari domani in una prossima puntata vi racconterò anche che cosa sta succedendo dal punto di vista pratico, ma sentiamo Taubman cosa mi ha detto in una intervista che ho avuto con lui. Well, this is my home and I believe in the future of this area. You know, Michigan is a unique thing. Cosa mi racconta, cosa mi dice Taubman? Ecco, dice, questa città è la mia casa e credo nel suo futuro. Il Michigan è unico, siede sull'acqua, a disposizione più riserve d'acqua dolce di qualunque altro paese al mondo. In quest'area del Michigan abbiamo il 24% dell'acqua dolce mondiale e verrà un giorno in cui l'acqua sarà più importante del petrolio. C'è un enorme bisogno di acqua dolce nel settore manifatturiero, nel settore industriale, per gli impianti di raffreddamento. Ancora non l'hanno capito, ma quando lo capiranno torneranno tutti qui a Detroit. Ecco, ascoltare un novantenne che guarda con visione a un futuro lontano, devo dire, anche questo è rassicurante per i destini di questa straordinaria città americana. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Ho parlato di Detroit, abbiamo aperto con una canzone italiana su Detroit, città in fallimento ma che, per quel che ho visto, sta cercando con grande orgoglio di rimettersi in piedi. E dunque a Detroit dedichiamo la canzone di oggi, Jill Scott Heron, We Almost Lost Detroit. Abbiamo quasi perduto Detroit. And you don't need- New York tutto. Simone, ti restituisco la linea. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24. Ringraziamenti, saluti e contatti finali. Ringraziamenti a Mario Platero naturalmente per America 24, Filippo Aureggi in regia, Laura Faggini in assistenza in redazione, tutta la redazione di Radio 24. Per quanto riguarda i contatti, www.facebook.com/effettogiorno, il mio account Twitter, Simone Spezia. Vi saluto, ci risentiamo tra un attimo con il giornale radio. Effetto Giorno torna domani alle 13:00.